Siamo in collegamento con Elena Monicelli, che intanto saluto e ringrazio per essere qui con noi. Ciao Elena. Ciao Anna, grazie per avermi chiamato. E siamo in collegamento per parlare del 25 aprile di quest'anno a Montesole, un 25 aprile pieno di iniziative e di impegni. La prima cosa che ti chiederei è di raccontarci un po' come sarà organizzato. Allora, la giornata seguirà lo schema classico, ovvero quello della mattina dedicata più agli interventi ufficiali. Quest'anno avremo come ospite Massimo Cacciari e un generale bosniaco che si chiama Jovan Divjak, che porterà la sua testimonianza, mentre poi al pomeriggio, anzi in realtà a partire più o meno da mezzogiorno, ci saranno tutti i vari appuntamenti tra Scuola di Pace, Prato del Poggiolo e alcuni dei luoghi dell'eccidio, che vedranno appunto il protagonismo non più delle istituzioni ma delle persone che ci verranno a trovare. Visto che è stata una tradizione anche negli anni passati, anche quella poi di risignificare, diciamo, questa giornata sia con la memoria della resistenza ma anche poi ricollegandola all'attualità, ti chiederei se è una cosa che farete anche quest'anno e in che modo. Sì, lo faremo in sotto diverse forme, nel senso che appunto, come ti dicevo, fin da mezzogiorno partirà un'attività che anche questa è diventata insomma tradizionale, che è il lavoro fatto dall'associazione Gocce di Memoria, che porta avanti un piccolo spettacolo teatrale dei ragazzi e delle ragazze delle scuole di Marzabotto, che hanno ragionato su figure che nell'attualità hanno offerto esempi di resistenza e di disobbedienza a leggi che ritenevano ingiuste. Le hanno selezionate loro, si sono informati e hanno deciso di elaborare appunto delle piccole scene, degli sketch che potessero restituire l'importanza di opporsi e di disobbedire in qualche modo. E sulla scia della disobbedienza, alla Scuola di Pace, Diovac presenterà nel pomeriggio il suo libro Sarajevo Mon Amour, che anche se ormai ha qualche anno rimane cruciale. Lui era un generale di origine serba che viveva a Sarajevo, ma di fatto deciso di abbandonare lo Stato che promuoveva politiche oppressive e criminali per aiutare la popolazione civile di quella città sotto assedio, e soprattutto con un progetto di futuro in testa che prevedesse una Bosnia unita, multietnica, aperta e solidale, insomma, in qualche modo. Allo stesso tempo offriremo la possibilità invece di mettersi in gioco rispetto alla propria possibilità di disobbedire, rispetto alla propria attenzione su quello che è forse ingiusto oggi e quindi su quello contro cui bisognerebbe ribellarsi, con un laboratorio che è aperto sia ai bimbi dai 6 ai 13 anni sia agli adulti, e abbiamo deciso di intitolarlo Without Borders perché vogliamo ragionare sull'idea di confine, quando questa idea è violenta, ingiusta e perniciosa rispetto appunto a un futuro o a un presente ancora di più di pace e di solidarietà. E infatti, diciamo, sono tutti temi molto interessanti anche in un contesto politico, diciamo quello attuale, che forse è diverso un po' da quello degli anni passati. Penso al ministro degli interni Salvini, che ha detto che non parteciperà al 25 aprile perché non vuole prendere parte, ma anche alle tante manifestazioni neofasciste che si sono viste quest'anno anche a Marzabotto, per esempio. Sì, è chiaro che la situazione contingente sembra chiamare ad un atteggiamento forse ancora più attento e preoccupato. In realtà abbiamo scovato, grazie ad alcuni amici studiosi, una citazione di Ferruccio Parri, uno dei più grandi resistenti che la nostra storia abbia mai conosciuto, e in realtà lui ha sempre affermato che non si può potesse, ecco, prescindere mai dal fatto di prendere delle decisioni, dal fatto di avere dei principi. Lui ne parlava nel 1960, quindi in realtà verrebbe da dire che la storia si ripete. Anche allora si diceva che fosse lecito porre tutto il passato sullo stesso piano. Lui diceva che questo tipo di dimenticanza in realtà è proprio il primo passo verso l'involuzione della nostra comunità, e sosteneva che riguardare alla storia della resistenza ci avrebbe permesso di riguardare a ciò che l'Italia in questo caso ha di meglio. Lui parlava di una essenziale carica di energia morale che forse l'Italia non ha mai più avuto, ma noi non vogliamo che non l'abbia più. Lavoriamo appunto perché questa energia morale, che è un'espressione che mi piace tantissimo, e quindi non moralismo, non il fatto di essere bacchettoni, ma proprio il fatto di essere energici, possa significare ancora una prospettiva di cambiamento. Perfetto, io intanto ti ringrazio per questa citazione e ti chiedo solo un'ultima cosa, visto che poi ci sarà in programma anche musica, come sempre, per questo 25 aprile, ti chiederei se puoi farci anche qualche nome in questo senso. Sì, sì, te li faccio tutti, perché sono tutti graditissimi ospiti e credo pienamente in linea con quanto andiamo dicendo. I concerti partiranno dal Prato del Poggiolo dalle 13:30 e avremo i Maracatimba, i Mulini a Vento, i Bolognina Roots Family, i Bibot, per chiudere alla grande con i Tre Allegri Ragazzi Morti. Ci sarà anche un intervento di Vauro, probabilmente dal palco, quindi credo che non mancheranno le occasioni, insomma, per recuperare questa energia di cui si parlava prima. E se mi permetti, vorrei segnalare solo un'ultima cosa, perché la Scuola di Pace ha in essere ormai da qualche anno una cooperazione con un ONG che si chiama Help Code in Mozambico. Noi stavamo lavorando là con maestri e professori per provare a ricostruire un tessuto sociale dopo anni e anni di guerra civile, ma come forse i più ricorderanno, il 14 marzo scorso si è abbattuto un ciclone che ha devastato completamente il paese e soprattutto la zona in cui staremo lavorando. Abbiamo una mostra per farvi vedere un pochino quello che si stava portando avanti, e vi chiediamo di volerci aiutare. Stiamo raccogliendo fondi per poter provare a capire se riusciamo a ridare una casa, dell'acqua e un tetto sopra la testa alle persone che appunto stavano cercando di ricomporre la loro comunità e la loro società. Allora, molto brevemente ti chiedo anche se ci sono dei contatti, dei riferimenti per chi volesse aiutare al di là del punto il 25 aprile. Sì, sì, sì, potete andare sul sito di Help Code, helpcode.org, lì trovate il link diretto, oppure in home page sul nostro sito montesole.org. All'interno del programma del 25 aprile ci sono tutte le informazioni per poter fare queste donazioni. Perfetto, io ti ringrazio molto di nuovo e ti saluto. Grazie, grazie a voi, buona giornata.